Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. Il saluto vi viene anche da Miriam Lucchetti e Massimo Brugnone in redazione. A confezionare con me questo programma è Roberto Scaltritti alla parte tecnica. Vi ricordo le coordinate per interagire con noi, che sono la mail nessunluogo@radio24.it. Ci trovate su Facebook alla pagina Nessun Luogo è Lontano -Radio24, su Twitter Nessun Luogo 24, e poi gli sms sono 349-238-6666. Quest'oggi vi propongo una riflessione, uno sguardo su uno dei più grandi business del mondo, un business globale, ramificato, che coinvolge milioni di persone, che fattura milioni di euro e che risulta così potente da far vacillare interi stati. Oggi fotografiamo il narcotraffico. Argomento immenso, complesso, che richiederebbe ben più di una puntata solo per accarezzare le tematiche principali. Insomma, ci vorrebbero anni per fotografare una situazione in cui gli attori cambiano, le logiche e le dinamiche economiche e sociali si modificano. Ci vorrebbero anni, almeno 6 anni, quelli che ci ha messo Alessandro Scotti per svolgere la sua accurata indagine narcotica. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Allora, intanto, sei anni sulle rotte della droga, sia l'eroina che la cocaina. Come sono stati questi 6 anni in estrema sintesi? In estrema sintesi intensi, estremamente intensi. Io sin dal principio ho cercato di isolare quelle che sono le zone di produzione principali nel mondo e i paesi più significativi dal punto di vista del flusso che muove verso i mercati occidentali, quello nordamericano e quello europeo, che non sono i mercati più grossi in termini di numeri, ma indubbiamente sono i mercati più significativi nei termini dell'indotto economico che sono in grado di generare. Ecco, Narcotica, edito da ISBN Edizioni, uscito nel 2008, ma l'analisi, insomma, la tua inchiesta è in qualche modo una pietra miliare. Le dinamiche che tu hai messo in luce sono valide tutt'oggi ed è per questo che ancora una volta torniamo a parlarne con l'autore. Oggi analizzeremo le componenti e gli ingredienti, i fattori della rete del narcotraffico, e cercheremo di analizzarli utilizzando alcune categorie. E probabilmente una delle categorie principali è il territorio, quei territori anche a volte molto distanti che tu hai visitato, insomma hai consumato la suola delle scarpe. Si dice che un buon giornalista si riconosce dalla suola delle scarpe, in questi 6 anni insomma di strada ne hai fatta. Partiamo proprio da questi territori, Alessandro. Sì, come dicevo prima, la tappa iniziale di questo viaggio sono stati quei paesi maggiormente significativi dal punto di vista della produzione. E evidentemente in queste aree il territorio è chiave. Senza ampi territori non si riesce a coltivare né oppio, da cui poi si ricava morfina e eroina con un processo di raffinazione, né pianta di coca dalle cui foglie si ricava cocaina. Ora, dal momento che perché questo business sia sufficientemente redditizio, le estensioni del territorio coltivate devono essere molto grandi, è chiaro che i paesi in questione sono dei paesi le cui autorità hanno grossi problemi di controllo sul proprio territorio nazionale. Ed è grazie a questo è possibile che si crei un fenomeno come quello di cui stiamo parlando. E questo tipo di paesi rappresenta la prima categoria che io ho investigato e in cui sono andato a lavorare. Ci sono poi una serie di paesi invece i cui territori sono chiave per il traffico, per il percorso quindi della sostanza tendenzialmente raffinata, magari non completamente raffinata, però tendenzialmente perlomeno raffinata in una delle sue fasi iniziali. E questi paesi chiaramente soffrono molto di passaggi importanti di sostanze con effetti estremamente pesanti che andremo a vedere. Quindi, per riassumere, esistono paesi di produzione, paesi di origine, esiste un mercato di destinazione che tipicamente può essere il nord dell'America, quindi gli Stati Uniti e l'Europa, e in mezzo paesi di transito che a volte diventano hub, come nel caso dell'Africa occidentale, che sta, insomma, è assurda agli onori della cronaca negli ultimi anni, che vedono poi cambiare anche l'aspetto, la società, l'economia proprio derivante dall'impatto del transito di queste sostanze, nella fattispecie l'Africa occidentale, la cocaina. Ma prima di andare avanti, i numeri e le rotte del mercato della coca. Secondo i dati raccolti dallo UNODC, si è verificato un calo complessivo della produzione di cocaina, principalmente dovuto a una diminuzione della coltivazione in Colombia nel periodo 2006-2010. Il dato è però in parte controbilanciato dall'incremento avvenuto negli ultimi anni negli altri due principali paesi produttori, Bolivia e Perù, che dal punto di vista della filiera produttiva stanno diventando sempre più importanti. Il numero dei consumatori resta stabile ed è stimato tra i 13 e i 19 milioni di cocainomani. I principali mercati per la cocaina continuano ad essere il Nord America, l'Europa, l'Australia e la Nuova Zelanda. Queste regioni rappresentano oltre l'80% del valore totale del mercato della cocaina mondiale, che è stato stimato attorno agli 88 miliardi di dollari. Per raggiungere il mercato nordamericano, la coca viene trasportata dalla Colombia al Messico o al Centro America per mare e poi via terra verso Stati Uniti e Canada. Il mercato europeo è invece rifornito via mare, sempre più spesso tramite la spedizione in container. La Colombia resta la principale fonte della cocaina sequestrata in Europa, mentre la maggior parte della coca che raggiunge gli Stati Uniti proviene per lo più dai due produttori in ascesa, Perù e Bolivia. Da alcune rilevazioni emerge inoltre un crescente consumo di coca sotto forma di crack in alcuni paesi del Sud America. Ecco Alessandro, che cosa accomuna due territori così distanti come la Colombia e le sue foreste e l'Afghanistan, no? Due grandi produttori di due sostanze diverse che però appunto hanno dei punti comuni, essendo il punto di origine di questo grande traffico. Credo che essenzialmente quello che li accomuna è, come dicevo prima, un problema di controllo del territorio. In Colombia affonda le sue radici in una situazione di confronto fra lo Stato e la guerriglia, ormai molto lunga e che non ha trovato una sua soluzione. La situazione è per ovvi motivi diversa in Afghanistan, ma simile nella sostanza. Un paese esteso con una geografia complessa e un governo che non riesce ad avere controllo completo sul territorio. Il caso colombiano è un caso di evoluzione, è un caso di un paese che ha passato tutte forse le possibili fasi evolutive di un grosso produttore di sostanze stupefacenti. E la cosa interessante è che all'inizio di questo processo, parliamo degli anni 70, quando poi è stato avviato un fenomeno più articolato che ha dato luogo ai cartelli, alla grande esplosione della cocaina colombiana, il ruolo della Colombia era il ruolo di un paese di raffinazione, usato per la raffinazione, non per la coltivazione. Venivano importate le foglie di coca dai paesi limitrofi, lì raffinate e poi successivamente trafficate verso gli Stati Uniti. Col tempo e con i cartelli e con il conflitto a cui facevamo riferimento prima, è diventato invece il maggiore paese produttore anche in termini di coltivazione. Ecco, parte delle caratteristiche che hai enunciato per i territori di coltivazione valgono anche per i cosiddetti hub, cioè per i transiti. Quindi un governo, uno stato debole che non riesce a controllare il proprio territorio e magari i propri confini, che per loro natura sono porosi, si prestano magnificamente a diventare degli hub ottimali. È il caso della Guinea-Bissau, ad esempio, a cui facevamo menzione prima, in cui queste piccole isolette a largo sono state usate dai colombiani come pista d'atterraggio per i loro piccoli aerei carichi di cocaina. Quindi mancanza di uno stato centrale, confini porosi e insomma il gioco è fatto per i narcotrafficanti. Le persone che stanno dietro i narcotrafficanti sono i pesci piccoli, sono i pesci grandi. Vedremo meglio, cercheremo di capire meglio che faccia ha un narcotrafficante subito dopo la pausa. Nessun luogo è lontano. Yeah! Marca de avião Guinense 15. 15 medicamento pra tudo, Guinenses. Guinenses querem doença mais. É música antes que na condição. Não pode ir ao Hospital Nacional Simão Mendes. Vê que não levanta na sorte de onde óbito. Não sobra só espaço de data com hora pra quem que não mata pra assina. E rap, pistola, não no sério, se bala. E pop que na visão é vendendo salaria. Cachurros. Le rotte, i mercati del narcotraffico mondiale, di questo parliamo oggi a Nessun Luogo Lontano con Alessandro Scotti, giornalista, scrittore, fotografo, autore di Narcotica. Stavamo accennando al fatto che adesso tratteggeremo un po' il volto del narcotrafficante, ma prima, Alessandro, volevi tornare sul concetto degli hub, sui paesi di transito. Facciamo magari qualche esempio pratico, oltre alla Guinea-Bissau che abbiamo citato. Sì, indubbiamente la Guinea-Bissau è un esempio significativo, anche perché è uno dei paesi nel mondo più, come dire, più giovane in questo ruolo. È qualcosa che è esploso, saranno 5-6 anni, quindi è recente, ed è la reazione a delle dinamiche che si sono sviluppate lungo le rotte consolidate precedenti, che attraversavano invece direttamente dalla Colombia o il Mar dei Caraibi o il Pacifico, il Centro America verso gli Stati Uniti. Ed è il caso di un paese i cui equilibri si sono trovati a dover far fronte a un'ondata e a un potere economico gigantesco, quello dei narcotrafficanti, in grado di corrompere, in grado di comprare, dove io credo il grande vantaggio che hanno trovato in Guinea-Bissau rispetto ad altri paesi è l'isolamento. Un paese tranquillo, non particolarmente al centro di nulla, però in una posizione geograficamente utile. Lungo le rotte consolidate, invece quelle che attraversano i Caraibi, un caso emblematico, invece ben, come dire, che ha una sua storia alle spalle ben più lunga, è quello della Giamaica, un paese con degli equilibri socio-economici estremamente fragili, devastato per la posizione geografica in cui è, quindi attraversato da un flusso imponente di cocaina che si lascia dietro le spalle un fenomeno di violenza e di dipendenza da crack spaventoso. Ecco, Alessandro, ti... che nel qualche anno fa, ora non ricordo esattamente la cifra, ma l'anno, ma Kingston era la terza città del mondo come omicidi per abitante, quindi un livello di violenza estremo. Quando la rotta della coca o dell'eroina attraversa un paese, accade di frequente che quel paese diventi esso stesso un mercato per la droga, oppure semplicemente c'è un transito? Perché ad esempio in Guinea-Bissau, dove siamo stati un paio di anni fa, si iniziava a vociferare, si mormorava che insomma qualcuno, un po' della polvere bianca, iniziava a utilizzarlo. È una regola, come funziona? Cioè, se uso io, trafficante, grosso trafficante, uso quel paese come hub, ho interesse che diventi anche un mercato, oppure è meglio passare veloci e andare diretti agli Stati Uniti, diretti all'Europa? No, nella mia esperienza la regola è che un paese di transito diventa sempre un mercato, diventa sempre un mercato importante, deve diventare un mercato, per ragioni pratiche sostanzialmente. E mi viene da fare due esempi lampanti. Uno è i paesi del Centro Asia, in primis il Tagikistan, che è il paese con cui l'Afghanistan confina lungo la sua frontiera settentrionale, dove fino credo al 1997 non c'era traccia di eroina e neanche esperienza nella popolazione di consumo di eroina. Dal 97, finita una lunga guerra civile che aveva sconquassato il paese, è iniziata una massiccia distribuzione di eroina gratis a una popolazione che non ne sapeva nulla e che pertanto era del tutto impreparata. Tutto questo funzionalmente a crearsi una rete di persone affidabili. Il primo passo che serve a chi vuole organizzare transito di narcotici. Il secondo esempio fondamentale, direi, a livello mondiale è quello dell'Iran. L'Iran ha una popolazione, l'Iran è storicamente attraversato da oppiacei che vengono dall'Afghanistan, anche perché è un paese molto vasto che condivide con Afghanistan e Pakistan una frontiera lunghissima, desertica, difficile da controllare, e da una parte, dall'altra parte confina con la Turchia, quindi siamo alle porte dell'Europa, è perfetto per essere attraversato. Negli anni è stato colpito molto duramente da questo fenomeno, tanto che oggi ha una popolazione di eroinomani che supera il milione, quindi imparagonabile rispetto a qualsiasi altro paese del mondo, ma è anche imparagonabile la reazione di questo paese al fenomeno, e questa è una cosa che raramente viene riconosciuta o è poco conosciuta. L'Iran da solo, nonostante sia un paese sotto embargo dai tempi della rivoluzione, quindi con armi vecchie o altrimenti di contrabbando, ma da solo sequestra 700 volte gli oppiacei che vengono sequestrati dagli Stati Uniti, quindi un risultato gigantesco nell'interrompere un flusso che viene verso l'Europa, quindi un risultato di cui di fatto a qualche titolo beneficiamo noi, con costi molto elevati, nel senso che le vittime fra le truppe di frontiera iraniane negli ultimi 20 anni sono attorno, se non ricordo male, ai 4.000. Gli scontri sono spesso estremamente violenti. Il narcotraffico è fatto da mercati, da paesi di origine, paesi di destinazione, paesi di transito, come stiamo ascoltando delle parole di Alessandro Scotti, ma è fatto da persone. Chi è il narcotrafficante e come si diventa un narcotrafficante? Luca Rastello, giornalista di Repubblica e scrittore, ha tratteggiato con una penna sapiente e dosata «Io sono il mercato», uscito da poco per Chiare Lettere, che è uno sguardo criminale sul mondo, cioè lo sguardo di un narcotrafficante più che uno sguardo sul mondo criminale. Innanzitutto il narcotrafficante è una persona che crede fermamente nel libero mercato e che è convinto di incarnarne la forma più pura. Diciamo che è l'imprenditore moderno, tardo capitalista, libero da vincoli e scrupoli che non ritiene peraltro morali, perché si costruisce una moralità parallela, ma che caratterizzano in qualche modo l'attività imprenditoriale legale. Il narcotrafficante, se parliamo del grande narcotrafficante, poi ovviamente le tipologie sono molto varie, ma cercando di schematizzare, parlando del grande narcotrafficante e non del piccolo corriere o dello spacciatore, è una persona che ha una disponibilità di capitali molto ampia, molto vasta, e che riesce a investirli in una delle attività più redditizie nella storia dell'umanità. Non bisogna dimenticare che la proibizione, cioè la difficoltà di accesso al mercato a livello del dettaglio, aumenta la redditività delle sostanze proibite in maniera esponenziale. Nel decennio scorso, per un dollaro investito in produzione di cocaina, lungo la filiera si producevano qualcosa come 1.100 dollari che andavano poi a nutrire il mercato della droga. Ecco, chi dispone di grandi capitali è in grado di costruire grandi sistemi di protezione, sistemi logistici, strutture articolate, aziendali, vere e proprie strutture che in qualche modo hanno anche anticipato le dinamiche dell'impresa legale. Per esempio, certi aspetti della terziarizzazione, della delocalizzazione, eccetera, sono visti all'opera nell'industria della droga molti anni prima che diventassero un'abitudine nell'organizzazione industriale contemporanea. Sì. Il narcotrafficante è una persona in qualche modo che è in grado di interagire con soggetti differenti, dai soggetti istituzionali con cui si devono stabilire alleanze o quantomeno rapporti vigili, convivenze se non connivenze, oppure con cui si deve agire in termini di corruzione, ai soggetti istituzionali, ai soggetti di mercato, cioè gli interlocutori, che molto spesso sono anche molto pericolosi, ai soggetti che poi sono portati invece a lavorare all'interno dell'organizzazione industriale della droga. Quindi è un grande organizzatore, un grande manager, è un uomo che crede fermamente nel libero mercato, come dicevo, di cui si sente l'incarnazione più perfetta. Sì. Ed è un uomo in qualche modo che riesce a costruirsi una posizione sociale indispensabile. Uno degli aspetti interessanti nelle inchieste che ho fatto, che emerge nella soggettività dei grandi narcotrafficanti, è la convinzione di avere un rapporto a pari con il mondo che li combatte, cioè l'idea di dover arrivare a una mediazione in cui entra per esempio il sacrificio di alcune quote di sostanza, il sacrificio di alcuni operatori, di alcuni uomini, per esempio l'uso sistematico delle cosiddette mule, i corrieri di piccolo cabotaggio che prendono gli aerei intercontinentali con lo stomaco pieno di ovuli carichi di cocaina, vengono offerti alle forze dell'ordine per dare un sistema, per dare una garanzia di una quantità fisiologica di sequestri che allenti la pressione dell'opinione pubblica sulle forze dell'ordine, in modo da non far sentire alle forze dell'ordine l'urgenza di occuparsi seriamente del narcotraffico. Questo fa parte anche delle strategie. A un livello più alto, la consapevolezza che l'economia del mondo è strettamente legata ai capitali che nascono in ambito illegale, che il denaro che proviene dalle attività illecite loro, proprio per l'alta redditività delle sostanze che mangiano, rifornisce sistemi di credito pubblici e privati senza i quali ci sarebbero veri e propri collassi, sì, dell'economia. Sì. L'ultima cosa che ti chiedo, e qua è proprio in estrema sintesi, visto che l'hai incontrato e ci hai parlato, che faccia ha il narcotrafficante? Babbo Natale. Quello di cui ha una faccia assolutamente rispettabile, è una persona perfettamente inserita in un sistema sociale, non è un dropout, non è il padrino nel senso cinematografico classico, è un imprenditore, generalmente un imprenditore moderno, un'abilità che ho riscontrato in alcuni straordinariamente affascinante, consiste nel sapersi far sottovalutare, persone simpatiche, amichevoli, padri di famiglia quasi esemplari. Perfetto, insomma il basso profilo è fondamentale, no? Cioè, anzi, fondamentale. Essere, in gergo si dice grey man, no? Un uomo grigio, insomma, non essere memorabile. O un uomo grigio oppure il simpatico perno di una compagnia, anche quello va molto bene, essere molto popolare aiuta. Per esempio, vabbè, storicamente a un altro livello politico e anche di gestione militare della sicurezza, un uomo molto popolare fu Pablo Escobar. Adesso facciamo una piccola pausa e poi andiamo a parlare proprio di questo, della mitologia del narcotrafficante. Nessun luogo è lontano. El Padrino, il signor Pablo Escobar. Per quelli che hanno vissuto sulla luna negli ultimi 20 anni, il capo, il boss di tutta la baracca, El Magico. Così Ted Demme nel suo film del 2001 Blow presentava e tratteggiava il supercapo, il grande narcotrafficante Pablo Escobar, che ha contribuito, Alessandro, a creare un universo di riferimento, no? Fatto di potere, fatto di anche in qualche modo di arroganza, perché poi lui insomma ha passato forse un confine che non doveva passare. Un mondo molto attraente, un mondo fatto di soldi facili subito. Perché è così attraente questo mondo e come è stato costruito dai narcotrafficanti? Beh, la figura di Escobar è assolutamente determinante, non ha contribuito, l'ha creato. È un uomo che ha lavorato molto sapientemente alla sua immagine, sia in casa che fuori. Il suo è forse il mito, indubbiamente il mito più conosciuto, ma è forse anche quello più complesso, nel senso che lui si è proposto con varie facce, e credo dal mio punto di vista che quella che ha avuto più successo non sia tanto quella del narcotrafficante, ma a seconda dei casi quella o del Robin Hood che ruba i ricchi per ridistribuire, cosa che lui faceva abbondantemente ai suoi compaesani, o in termini direttamente di soldi o in termini di servizi, costruiva stadi, zoo, corroborando l'idea di essere un David contro Golia, un umile colombiano che dal nulla decide di schierarsi contro la superpotenza, gli Stati Uniti, e contro la loro ingerenza nelle vicende interne colombiane. Ma perché la carriera del narcotrafficante risulta così appetibile? Andiamo nei sobborghi di una grande metropoli statunitense. Perché un giovane a un certo punto decide di farsi rapire, no? Da questo percorso criminoso? Ma è in parte credo che affondi in esperienze simili a quella tratteggiata di Escobar, indubbiamente corroborata da molti prodotti dell'industria culturale, la musica, il cinema. Tutto questo insieme crea una mitologia estremamente solida. Nel libro io parlo di uno studio fatto da un economista americano che si chiama Steven Levitt, assieme con un giornalista del New Yorker che si chiama Dubner, i quali hanno preanalizzato i libri contabili di una organizzazione dedita allo spaccio del crack, e si sono resi conto che la maggior parte degli affiliati, dei dipendenti potremmo dire, viveva a casa coi genitori. Analizzando appunto le entrate, le uscite, le spese, si sono resi conto che questo avveniva per questioni di necessità, non si potevano permettere altro. Ora, la conclusione che loro traggono alla fine di tutta la loro analisi squisitamente economica è che la possibilità di un trafficante di diventare ricco è equivalente a quella di una contadina del Wisconsin di diventare un'attrice di Hollywood, o di uno sportivo universitario di finire a giocare a calcio in Serie A, insomma. E questo denuncia in qualche modo tutta la forza di questa mitologia che è stata costruita, che poi a cui viene data continuamente linfa vitale da una certa immagine costruita dal cinema e certe musiche. Ci sono gruppi musicali in Messico, i narco rapper, che celebrano le gesta appunto dei narcotrafficanti. Un grazie a Alessandro Scotti per essere stato con noi, autore di Narcotica. Sei in partenza, hai una qualche altra missione di lungo periodo che ci puoi rivelare? Sono in partenza per il Mozambico, ma sempre per un progetto articolato, insomma lungo, simile a quello che alla fine ha permesso di fare Narcotica, ma indagando in questo caso le dinamiche di espansione delle città intermedie, cioè come stanno evolvendo, come sta evolvendo a livello mondiale il fenomeno dell'urbanizzazione. Allora, grazie, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie a voi. E adesso, gentili ascoltatori, vi propongo una chiacchierata che abbiamo fatto con Yuri Fedotov, direttore esecutivo dell'Ufficio Anticrimine e Antidroga dell'ONU, forse l'organismo che meglio di altri ha il polso della situazione sui grandi traffici di droga a livello mondiale. Ebbene, a Fedotov abbiamo chiesto innanzitutto forse la domanda più disarmante nella sua semplicità: come combattere il traffico di droga? It's a good question. Thank you for that. And of course, it's not an easy question. È una buona domanda, grazie. Ma ovviamente non è una domanda facile. La comunità internazionale è impegnata nella lotta al traffico di droga da diversi anni. E la strategia è quella di colpire tutti gli anelli della catena, dai produttori ai trafficanti fino agli spacciatori. C'è bisogno di un approccio integrato. Si tratta di un problema globale che necessita di una soluzione globale, basata su sforzi nazionali e internazionali. Soprattutto c'è bisogno di impegno politico, così come di iniziative e soluzioni pratiche che agiscano alla radice del problema. Ciò vuol dire creare partnership tra le varie agenzie di sicurezza che applicano approcci interdisciplinari fondati su programmi originali. Il programma dello UNODC è basato sulle nostre rilevazioni e sulla Convenzione internazionale sul controllo delle droghe, di cui lo UNODC è garante. Questo approccio internazionale è stato particolarmente utile per introdurre degli standard nel sistema di controllo delle droghe e per uniformare leggi e pratiche per combattere il narcotraffico. Per quanto riguarda i cartelli di droga, lo UNODC non è un organismo esecutivo. Il nostro ruolo è quello di supportare gli stati, in particolare incoraggiare la collaborazione tra le forze dell'ordine e quelle di investigazione sui trafficanti transfrontalieri. Agevolare l'addestramento delle forze dell'ordine per costruire soluzioni pratiche condivise per l'investigazione e la persecuzione dei trafficanti. A Yuri Fedotov, direttore esecutivo del UNODC, abbiamo anche chiesto se vi siano stati, come dire, poco virtuosi nel combattere i traffici di droghe, e abbiamo fatto menzione a uno stato in particolare, che è la Guinea-Bissau, che negli ultimi anni è salita agli onori, o meglio, i disonori della cronaca, per uno degli stati quasi ostaggio dei narcotrafficanti colombiani. First we need to understand better the size and the scope of this crime. Prima di tutto bisogna capire meglio come funziona e qual è la portata del fenomeno. 320 miliardi l'anno. È questo l'introito del narcotraffico. Il mercato della cocaina globale si aggira attorno agli 85 miliardi, mentre quello degli oppiacei raggiunge i 68 miliardi. Nessuna nazione può affrontare un fenomeno del genere da sola e nessuna nazione è immune da questo tipo di crimini. Per questo la collaborazione internazionale è essenziale e lo sforzo deve essere comune. Perciò, invece di catalogare gli stati come pigri o inefficaci nella lotta al narcotraffico, dobbiamo focalizzarci sul modo di responsabilizzare tutti i governi verso questo problema e di creare una mutua assistenza tra nazioni. Ed è proprio questo il ruolo dello UNODC. So as I said earlier, UNODC's role is to work with international community and to help build the capacities of nations so they can halt the flows of illicit drugs. I think we should consider a more broader category of less developed countries. Per quanto riguarda la Guinea-Bissau, occorre condurre un discorso più ampio sui paesi in via di sviluppo che affrontano sfide molto più dure in questo campo. La via verso la democrazia di questi paesi è costellata da ostacoli, problemi sociali ed economici, governi e istituzioni molto deboli. Ci sono molti esempi, e parlando della Guinea-Bissau, che è un paese molto difficile, abbiamo ragione di credere che in seguito al colpo di Stato militare i traffici di droga si stanno intensificando. Come UNODC ci stiamo impegnando per conoscere la situazione del paese. Ho incaricato infatti il nostro rappresentante in Africa occidentale di raccogliere dati e riferire direttamente a me per poi decidere sul da farsi. Paesi come la Guinea-Bissau sono l'esemplificazione del potere dei signori della droga. Ciò che dobbiamo fare è migliorare la partecipazione e l'assistenza con i nostri programmi integrati per aiutare anche i paesi in via di sviluppo a creare capacità specifiche, migliorare il sistema di controllo. Nel caso dell'Africa occidentale, lo UNODC ha approntato un piano d'azione, il WASI, West Africa Coast Initiative, per gettare le basi di una rete di controllo per combattere il traffico di droga che dal Sud America raggiunge l'Africa occidentale e poi l'Europa. Bisogna capire poi che attorno ai cartelli di droga gira una gran quantità di soldi. Una delle maggiori sfide da affrontare è fermare questo flusso di denaro che di solito alimenta la corruzione statale. Abbiamo un mandato dall'ONU di combattere entrambi i fenomeni. Lo UNODC è infatti in prima linea perché è garante della Convenzione ONU per prevenire e combattere la corruzione. Come fare? Dobbiamo usare strumenti per incoraggiare le nazioni ad adempiere ai propri doveri. Se riusciamo a tagliare questo flusso di denaro, sarà molto più facile combattere il traffico di droga. I numeri del narcotraffico a livello mondiale, ricerche, statistiche, ma anche direttive e raccomandazioni ai singoli stati per combattere questo fenomeno. Abbiamo chiesto a Fedotov, direttore esecutivo del UNODC, come giudica la politica europea e quella italiana contro il traffico di droga. Il primo obiettivo dello UNODC è proteggere la salute dei cittadini. Quindi il nostro approccio al problema del narcotraffico è più medico-scientifico che politico. Posso dire però che, per esempio, i paesi dell'Europa dell'Est hanno bisogno di maggiori risorse per combattere efficacemente i narcotrafficanti. Per quanto riguarda l'Italia, invece, la strategia nazionale contro la droga ha dei pregi notevoli. Prima di tutto, la rete di comunità statali e private per tossicodipendenti, che è molto efficiente. Secondo, il Dipartimento Politiche Antidroga ha creato anche una piattaforma scientifica per lo scambio di ricerche, metodologie e risultati con l'Istituto Superiore di Sanità e con molte università italiane. Infine, l'Italia può contare su una forte rete di professionisti molto preparati, specialmente nel trattamento della tossicodipendenza. Perciò speriamo di continuare proficuamente la nostra collaborazione con l'Italia. Se ci sono punti deboli, mi preme di più porre l'accento sugli aspetti positivi e sugli apporti più utili alla lotta internazionale contro il traffico di droga. È tutto per questa puntata di Nessun Luogo Lontano, dedicata a questa fotografia del narcotraffico a livello mondiale. Vi ricordo che potete commentare anche questa puntata su Facebook, Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24, oppure Twitter Nessun Luogo 24. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.